La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 22. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. L'articolo 22 rappresenta un altro dei segnali di cambiamento rispetto alla storia, perché garantisce che cosa? Che nessuno possa essere privato per motivi politici di capacità giuridica, cittadinanza e nome. Ovviamente riecheggia il sapore di leggi razziali, riecheggia il sapore di discriminazioni etniche che c'erano state negli anni precedenti, al punto che il Costituente deve arrivare a garantire che l'opinione politica non possa essere ragione di discriminazione al punto da garantire capacità giuridica, quindi piena esplicazione della propria capacità di agire nel diritto, cittadinanza e nome. C'è una curiosità interessante su questo articolo al di là della parte storica, perché qui è l'unico punto in cui in Costituzione si parla di cittadinanza e non si chiarisce assolutamente, perché non era questo l'intento del Costituente, chi possa essere il titolare della cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana, infatti, era ed è ancora oggi disciplinata da una legge molto antica, da una legge del 1912, che attribuisce la cittadinanza in base a quello che chiamiamo lo ius sanguinis, quindi si trasmette per genitorialità. Il figlio di italiani è italiano. E invece, proprio per questa ragione, è aperto ancora in queste settimane, in questi mesi, il dibattito sull'attribuzione per ius soli, cioè basta nascere in Italia per essere italiani? Al momento assolutamente no. La Costituzione su questo non esprime un suo indirizzo, quindi lascia piena libertà al legislatore e infatti è un tema oggetto della disciplina legislativa, del dubbio e della perplessità se l'Italia sia matura a passare a una cittadinanza basata sul diritto del suolo, quindi sulla nascita nel territorio italiano e non più, come per tradizione, sullo ius sanguinis, quindi sul diritto di nascita. Sempre sulla cittadinanza va ricordato che noi cittadini italiani non siamo più solo cittadini del nostro Stato, ma anche dal 1992 cittadini dell'Unione Europea. Tuttavia, quella europea che troviamo intestata chiaramente sul passaporto di ciascuno di noi, che è intestato all'Unione Europea, prima ancora che alla Repubblica Italiana, non è una vera cittadinanza, ma è semplicemente un'etichetta sussidiaria, cioè che si aggiunge alle cittadinanze nazionali e che non ha tante caratteristiche tipiche della cittadinanza. Prima di tutte, la libertà di circolazione e soggiorno. Infatti, mentre per gli italiani l'articolo 16 garantisce che possano circolare liberamente, soggiornare liberamente nello Stato, questo non vale per l'Unione Europea. Infatti, nell'Unione Europea si può viaggiare liberamente, però dopo 90 giorni bisogna dimostrare per risiedere in un altro Stato di avere i requisiti di studio, di lavoro, di reddito, di assicurazione. Quindi la cittadinanza dell'Unione Europea non è una vera cittadinanza.